notte sopra il mare. Sudore e salvia, sangue a sorsi per potersi dissetare. Vino nei pozzi per le piazze, c'è chi vomita sul serio. Sole a singhiozzi sui palazzi, tra la rosa e il rosmarino. E un uomo va sulla luna e dà sui denti una bandiera. Si arrampica sulla luna e la pugnala sulla schiena. E il giornale ci mette il colore e tira il lucido agli stivali. E bravo signor direttore, farà godere i suoi lettori. Tette gonfie sopra il mare, ghiaccio che squaglia, zolfo caldo, terra ruvida e catrame. Le chiese chiuse, c'è chi urla, date retta al cardinale. Le case chiuse, sono piene, c'è chi spinge per entrare. E un uomo accarezza il fucile e guarda fuori dalla finestra. E il cielo comincia a cedere e si fa un buco nella tempesta. E grandinano granate ed io ho un ombrello sulla testa. Però non vi preoccupate, l'ultima guerra sarà questa. Che si spoglia sopra il mare, bella che abbaglia, bella che bisognerebbe incatenare. Vele e veleno vanno e vengono nel porto a bassa voce. Le guardie dormono, i pirati possono lavorare in pace. Di niente e fa la tana nel Parlamento e spara, nessuno lo sente, il sangue cade sul pavimento e io mi gratto la testa e canto e lui risponde ma qui non c'entro. Addio luna d'Italia, addio mio dolce pianto. Sul pavimento e io mi gratto la testa e canto e lui risponde ma qui non...